Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Pornar. Parte terza, lezione 28. Ho disegnato l'intero alfabeto sulla lavagna come Kelim. Cosa dobbiamo fare con i Kelim? Dobbiamo sempre rimanere al centro. Ogni cosa che esiste è luce e Kelim ricevitori. La luce dà, fa i Kelim e viene nei Kelim. Tra loro ci sono tutti i tipi di mondi che sono divisi in Parzufim. Cinque mondi, ognuno di cinque Parzufim e ognuno ha cinque Sfirot. Noi diciamo così, ma ovviamente è un numero infinito, ma questo è sufficiente per mostrarlo. La luce Ein Sof si inserirà in tutti i tipi di gradi successivi, sempre più Kelim grossolani in crescita. Un essere umano è anche un Kli. Qualunque sia il destinatario, parliamo sempre di Kelim. La luce entra nei Kelim. L'intenzione è che l'uomo attraversi qua tutti i mondi e forze e riceve tutte le luci. Vediamo che dal mondo Azilut in poi possiamo solo ricevere in tre Kelim. Ecco perché parliamo di tre Kelim, mentre ce ne sono sempre cinque. Cinque luci e cinque Kelim, ma parliamo di tre. Dove sono quei due restanti? Noi, la creazione, non possiamo sperimentare i due Kelim sotto. Inoltre, non possiamo sperimentare due luci. E quelle due luci nascoste di Zerampin e Malkut, noi quelle le chiamiamo Kaya e Yechidah, che si sono incorporate nella luce Binah. Nella Binah sono ancora le luci di Chaya e Yechidah, ma non le sperimentiamo, non sono importanti per noi. C'è quindi un modo per vedere i Kelim come tre Kelim. Sfirah Binah, le lettere da Aleph a Tet, Sfirah Zerampin, le lettere da Yud a Tzadi, Sfirah Malkut, le lettere da Kuf a Tav. Possiamo visualizzare i Kelim per Sfirot, emanazioni di luce, ma possiamo anche mostrarlo con le lettere. Secondo le forze degli Sfirot, emanazioni di luce, può un superiore trasmettere a un inferiore, e può anche essere visualizzato in lettere. Nelle lettere possiamo capire e contenere ogni cosa. Possiamo portare giù i significati, saggezza, eccetera. Sono nelle lettere, combinazioni di lettere, parole, frasi, eccetera, eccetera. Le lettere ebraiche sono intrinsecamente legate alle forze dell'universo. Imparando le lettere possiamo capire ogni cosa che può essere compresa. Ora sappiamo che possiamo fare qualsiasi cosa tranne la luce e la saggezza dal fondo di Zerampin e Malkut. Quello non ha importanza. Ma il resto possiamo ed è abbastanza. Quello che ci dice è il seguente. Quando viene ai Kelim che sono singoli, da 1 a 9, Binah. E quando viene ai Kelim di Zerampin, allora è dal 10 a 90, che sono le lettere da Yud a Tzadi. Se abbiamo uno Yud, sappiamo già dove si trova e che sfirà è. Sappiamo poi che Yud è Keter da Zerampin, eccetera, eccetera. Possiamo sempre fare un passaggio dagli Sfirot alle lettere e dalle lettere agli Sfirot. Qual è la Malkut di Zerampin? Vedremo perché è tutti e nove gli Sfirot. 9 a Zerampin, e poiché erano 4 e in più 5 lettere finali, che diventano 9 Malkut. Impareremo nel mondo Azilut che la Malkut è stata portata su al Keter di Azilut, dove lei è nascosta. Devi vederlo così. Quando può essere corretta la Malkut della vera Malkut? Solo quando viene il Mashiach. Quindi, se rimane bloccata sotto, la luce non può mai entrare. Non può mai tirare giù la luce, perché c'è un blocco di quella Malkut da qualche parte. Malkut era nascosta da qualche parte nel Keter, con tutte queste estensioni del mondo. Ne abbiamo parlato e ne parleremo. Malkut è come se non era più attiva, è anche nascosta da noi. Anche il nostro vero io è nascosto. Invece, è stata una buona domanda, usiamo la parte inferiore di Yesod come Malkut. Perché? In Yesod possiamo ricevere luce e non in Malkut. Malkut de Malkut non si realizza perché nessuna luce entra. Così anche tutte le nostre correzioni sono... Non correggiamo la Malkut de Malkut. Sarà corretta con tutte le altre nostre correzioni, ma porteremo tutti i nostri poteri a Binah dalla Malkut. Diciamo altrimenti, anche con la nostra Malkut saliamo a Yesod, la Malkut. Malkut de Malkut non la tocchiamo. Lo avete sentito tutti. Malkut di Yesod possiamo ancora. Ecco le nuove lettere e abbastanza. Andiamo avanti. Sotto le decine vengono le centinaia da 100 a 400. E con la correzione finale le lettere finali saranno aggiunte. È chiaro? Ecco cos'è sui Kelim. La disposizione statica dei Kelim. Nell'alfabeto abbiamo da 1 a 9, che è Binah e poi Zerampin e Malkut, staticamente. E ora guarderemo dinamicamente come entrano le luci. Interazione. Un Kli ha 3 Kelim, come luce la riempie completamente. Malkut, Zerampin e Binah. Il più basso dei Kli è Malkut, poi Zerampin, poi Binah. Quali luci ci sono dentro? La luce Nefesh nel Kli Malkut, la luce Ruach nel Kli Zerampin e la luce Neshamah nel Kli Binah. Quando quei tre Kelim sono completamente pieni, ogni cosa va nel suo posto. Nefesh scende a Malkut, Ruach viene ordinatamente al suo posto e Neshamah viene in Binah. Le restanti due luci, Chaya e Yechidah, sono nella Neshamah. Sono nascoste nella Neshamah, non le sperimentiamo, non sono rilevanti. Naturalmente esistono tutte e cinque, ma per noi sono ancora nascoste fino all'arrivo del Mashiach. Non lo capisco, mi hai appena detto che Nefesh stava entrando in Keter. Ora do un'impressione quando tutte le luci sono già dentro. Come fanno a venire le luci nei Kelim? In quale Kli entra la luce per prima? Nel Kli Binah, quella è la più luminosa e in essa viene la luce Nefesh. La luce più bassa entra nel cli più alto, il primo cli. La fase successiva è che il secondo cli, Zerampin, diventa ricettivo, che significa che è pronto per ciò, è corretto, che lui può ricevere la luce. La luce Nefesh si abbassa al cli Zerampin e la luce Ruach entra nel cli Binah. Ora abbiamo due luci e due Kelim. È chiaro? Dillo se non lo è, perché è necessario sapere questo bene. È la base. Due luci, due Kelim. La terza fase è che anche il Kli Malkut è corretto. Diventa ricettivo. Ovviamente ci sono anche le fasi. Ce ne sono anche tre. La luce Nefesh si abbassa nel Kli Malkut e ogni cosa è in piedi ora. Prima era una dipendenza inversa, per così dire. La luce Ruach si abbassa nel Kli Zerampin e la luce Neshamah entra nel Kli Binah. Questo è importante per noi. Nel mondo Azilut? Dal mondo Azilut va tutto in quel modo, anche con noi, perché tutto ciò che è accettato con il superiore è legge per l'inferiore. Da Azilut è così, fino alla venuta del Messia è così. Non dobbiamo. Ecco perché parliamo di cinque Kelim, cinque Sfirot. Certo, ogni cosa consiste di cinque, ma due non sono sperimentati. Due Kelim non sono sperimentati e le due luci corrispondenti non sono anche sperimentate. C'è luce e Kli e interazione tra di loro. E l'interazione avviene solo con uno schermo Masach anti-egoista. Lì deve esserci uno schermo. Devi avere il potere di portarti in linea in accordo alle proprietà. Quale somiglianza con la proprietà dovrebbe esserci? Passo dopo passo dovrebbe essere trattato. Kli e luce, due partecipanti nell'universo. Il superiore dà all'inferiore. Abbiamo nelle Sfirot emanazioni di luce tre Kelim da Azilut. Abbiamo visto tre Kelim, tre luci che vengono e come entrano. Ora l'abbiamo imparato in quei numeri. Nei Kelim è come questo. Binah ha i numeri da 1 a 9, ma nelle luci, quale luce viene prima in Binah se non c'è nient'altro che il Kli di Binah? Nefesh. Se esiste solo il Kli Binah, solo così solo da Aleph a Tet, e il resto non è ancora sperimentato, allora viene solo la luce più bassa, la luce Nefesh. Qua la luce è singola. Poi un Kli può sperimentare di più, decine di Kli. Da Yud a Tzadi, là viene Ruach, che sono decine di luci. E poi, se il Kli Malkut può ricevere o tradurre le lettere da Kuf a Tav, allora anche la luce Binah entra. Più si abbassa, più potenza c'è, più luce può venire. La luce Binah che entra è di centinaia di proporzioni inverse. Questo è quello che ci dice. Gioca un po' con esso a casa. Vedrai che è importante. Possiamo allora anche costruire le cose qualitativamente. Questo è il principio. Prova a lavorare sui dettagli da te. L'intero scopo del nostro studio è di non masticarlo, ma principi che tu stesso elaborerai. Iniziamo con Binah, ma per quanto riguarda Chokmah, hai il Kli Keter e il Kli Chokmah? Molto buona la domanda, Enk. Abbiamo detto che due luci non vengono ricevute fino all'arrivo del Mashiach. Quali luci sono quelle? Chayah e Yechidah. A dove appartengono quelle luci? Quelle luci sono lì quando sono presenti tutti e cinque i Kelim. Abbiamo detto che due luci non si sperimentano. Una buona domanda, ti dirò cosa significa. È cruciale e importante comprenderlo, e allora abbiamo realizzato molto. Tre Kelim, Binah, Zerampin e Malkut, ma fondamentalmente abbiamo cinque Kelim. Keter, Kochmah, Binah, Zerampin e Malkut. Corrispondenti abbiamo le luci, luce Keter, Yechidah, luce Kochmah, Chayah, luce Binah, Neshamah, luce Zerampin, Ruach, luce Malkut, Nefesh. È importante sapere se stiamo parlando di Kelim o luci. Allora non avremo nessun problema. L'intero Zohar sarà chiaro a noi. Se non capiamo, allora ci confondiamo. Dal mondo Nekudim, un mondo intermedio tra Adam Kadmon e il mondo Azilut, è stata fatta una correzione, tikkun, o limitazione. Questi Kelim, Keter, Kochmah, Binah, sono autorizzati a ricevere, che corrisponde con la nostra testa al nostro centro. Poi c'è una Parsa, e sotto, nei Kelim, Zerampin e Malkut, è vietato ricevere. Pertanto abbiamo comandamenti e divieti nella Torah. È chiaro? Quali luci sono? Abbiamo detto che la Nefesh viene prima in Keter, poi viene Ruach in Keter e Nefesh cade giù a Kochmah. Guarda da vicino adesso, quali luci possono essere ricevute? Nefesh, Ruach e Neshamah. Quelle tre possono essere ricevute, sotto la Parsa non possono essere ricevute. Ora mi si chiede dove sia il Kli Kochmah. Guarda bene, è semplice, ma non farlo con la testa, tutto andrà. Ci ho provato anch'io, ma poi è assolutamente impossibile. Poiché quei due sono come se non esistessero più, fino all'arrivo del Mashiach, ne abbiamo solo tre. La Binah diventa qualitativa per noi, come Malkut. In tutti e cinque gli Sfirot, in tutti e cinque i Kelim, era qualitativamente Binah, ma ciò non esiste nella nostra percezione, quindi è Malkut. Kochmah allora è per noi Zerampin. Il grado inferiore è sempre Malkut. Quello di sotto dopo è Zerampin. Keter diventa Binah con noi. Ora sappiamo che non abbiamo più quei tre Kelim. Il Keter generale è proprio Binah per noi. Non possiamo davvero sperimentare due Kelim. È chiaro? Abbiamo ricevuto ora tre luci e tu chiedi dove sia il Kli Kochmah. Non appena la luce viene sotto la Parsa, Malkut verrà al Zerampin generale, il Zerampin della, prima della limitazione. Ci sarà uno spostamento e apparirà il Kli Kochmah. C'è pertanto uno stato di cinque Kelim, e dopo la limitazione abbiamo solo tre Kelim. Quando verrà il Mashiach, allora la luce si abbasserà a Zerampin, così un nuovo Kli sarà sperimentato. Il Kli che non possiamo sperimentare, percepire, non siamo stati in grado di farlo, Malkut si abbasserà adesso. La luce Ruach cadrà quindi al Kli Binah. lì verrà una luce in più e un cli in più che potrà essere sperimentato dopo la limitazione. Quale cli viene dopo? Cli Chochmah si unirà nella prima fase dopo l'arrivo del Mashiach. E poi un'altra luce e potenza sarà ricevuta e abbasserà la luce Malkut al suo proprio posto, e il Kli Keter verrà nella nostra percezione. È chiaro? Abbiamo 5 Kelim prima della limitazione, abbiamo 3 Kelim dopo la limitazione. Quei 3 Kelim corrispondono a Keter, Chochmah e Binah. Zerampin e Malkut precedenti alla limitazione non sono stati sperimentati. Ciò che noi ora chiamiamo Zerampin e Malkut è da quei 3 Kelim che sono rimasti sopra. E giocaci, non è difficile, non è matematica o fisica. È logico ma sperimentabile. Quei rapporti tra luci e Kelim sono molto importanti per noi. Per la prima volta abbiamo cercato di descriverlo bene. Sento che è passato attraverso, nel generale. Sì, in generale, solo una domanda. Apparentemente è possibile chiamare le luci Kelim. A volte usi i nomi Keter e Chochmah come luce e a volte li usi come Kli. No, è sempre Kli o luce. Devi sempre distinguere queste due cose. Le luci vengono solo in accordo ai Kelim disponibili. Se abbiamo Kelim disponibili, abbiamo corretto i Kelim e automaticamente entrano le luci adatte. Non devi pensarci, se ho solo un Kli, diciamo il precedente Kli Keter, prima della limitazione, quello è per me il Kli Binah. Poi ho 3 Kelim, Binah, Zerampin e Malkut. Binah è il Kli più alto, la luce viene prima nel Kli più alto, poi viene la luce più bassa, la luce Nefesh, nel Kli Binah. Perché poi scrivi luce Keter, luce Chochmah e il nome Yechidah o luce Keter, Chayah o luce Chochmah? Rallenta, non abbiamo fretta. La metropolitana passa tutta la notte. Se fossimo seduti qui fino alle 2, lo farei in un modo molto, molto diverso. Guarda, perché è necessario il nome luce Nefesh. Se si chiama luce Malkut è sufficiente, ma Nefesh dà una dimensione supplementare. Sai chiaramente che stai parlando di luce. Esattamente. A volte lo Zohar lo dice e dobbiamo sempre sapere se si tratta di luce o di Kli. A volte parlano di Malkut e si intende luce e pensi che è il Kli. Per lo Zohar è chiaro che se un uomo impara ciò, lui capisce. Mentre a volte non possiamo capire. Per lo Zohar è normale, ma per noi non è comprensibile. Quindi dobbiamo sempre tenere un occhio su quale sfirà è o luce. Possiamo dire luce Nefesh o luce Malkut. Quando diciamo Nefesh, Nefesh è per il nostro sentimento di luce femminile che solo brilla e non dà. Ruach si sta muovendo. Ruach è anche spirito, vento. È luce Chassadim, ma può già entrare, è maschile. Neshamah significa già vera anima, è sottile. Kayach significa forza vitale. Chai è vita. Riceviamo anche dalla parte superiore di Kayach, dalla parte più leggera di Kaya, ma dalla parte inferiore, la parte pesante, non riceviamo. Yekidah significa unità, piena unità, ma puoi anche dire luce Keter. C'è una sottile differenza nel sentimento? No, ma nel sentire sì. Si ottiene un sentimento in più quando si dice Yekidah, ma la luce Keter è sufficiente. Pertanto, a volte si usa questo e talvolta usi quello. Approcci diversi verso soggetti. A volte si sta parlando di luce Kochma e a volte di Kaya. Lo sentiremo. Prova a giocarci a casa. Qualcuno ha ancora domande? Questo deve essere chiaro. Non abbiamo fretta. Il principio è sufficiente, fallo da te, non cercare di masticarlo. Di nuovo, l'intero scopo del nostro studio è il desiderio, sforzandoci di formare il desiderio e rendere il desiderio ancora più forte e di esercitare uno sforzo. Sforzo e impegno, questi due sono importanti per noi. Le domande, quelle, sorgono con te. Siediti per questo. Cerca di fare ogni cosa, metti i tuoi punti di forza, esercita i tuoi sforzi, desideralo, piangi per capire, non capire con la testa. Rapporti tra Kelim e luci. Nient'altro esiste. Lo vedremo nella Kabbalah, luce e Kli. E Masach schermo. Senza schermo non possiamo assolutamente ricevere nulla. Ricordalo bene, saremo sempre più capaci di far rimbalzare la luce e a filtrare e a ricevere in accordo alle forze che abbiamo. Continuiamo con lo Zohar. Mi si chiede se è possibile tradurre le parole di Yeshua. Io sono la via, la verità e l'amore nelle Sfirot. Certo, perché no? Abbiamo detto che Binah è solo la caratteristica del dare e che corrisponde naturalmente all'amore. Zerampin trasmette alla Malkut. Esso dice la strada, la verità e la vita. Vita e non amore. Molto bene. Può anche essere. Binah porta Zerampin e Malkut la luce Kochma. Binah porta a Zerampin e Malkut la luce Kochma. La porta dentro, non da se stessa, ma da Abba padre. Ima e Binah madre. E lei porta la luce all'inferiore. La prende dal padre per i bambini. La strada è in questo caso la Binah. La verità è Zerampin, qualcosa che è stabile. Sei estremità del mondo, qualcosa che ha sei estremità. La vita è allora Malkut. Malkut è dove si vive dentro, deve essere soffiato. È anche così che puoi vederlo. Non sto dicendo che lo è. L'intenzione è che tu stesso dovresti avere queste comprensioni. Provalo da te. Anche qui ne abbiamo tre, non più di tre. Di cosa parla la religione? Lo puoi anche vedere in quel modo. Guarda il valore dallo spirituale, anche nella tua religione. È chiaro? Vedi che non contraddice nulla. C'è un elemento spirituale e nient'altro. Non lo spirituale di questo popolo e lo spirituale di quel popolo. C'è una via per la verità e una via per vivere. Ma diversi percorsi portano a quello. Ora andiamo avanti. Siamo a pagina 34, colonna di sinistra il nuovo paragrafo, la lettera Tav. Ed è quello che è scritto, parole dallo Zohar. Lui fornisce parole dallo Zohar e poi spiega. Prima apparve la lettera Tav, eccetera. Spiegazione, perché sai che ogni lettera dell'Alef Bet, alfabeto, ha la sua propria, lui chiama ogni lettera femminile, caratteristica scala del suo potere e forza. Ogni lettera, come Sirot, ha la sua propria forza in sé. E quindi la lettera Tav, l'ultima lettera, affermava che era la più adatta per portare il mondo alla perfezione di tutte le lettere insieme. Era la più appropriata di tutte le lettere che da lei, nei suoi poteri, il mondo sarebbe stato portato alla perfezione. Ora ci spiegherà come la lettera Tav ha detto che era più appropriata. Perché in lei è il potere, forza di verità. Ora impareremo qual è la verità. Otterremo enormi rivelazioni. Lo pensava lei o il creatore? Lei stessa. Una lettera significa una certa forza nell'universo. Ogni lettera ha un certo potere e vengono per il creatore, diciamo per la Binah, e ci sono tutte le lettere dell'alfabeto, 7 in fondo della Binah. Zerampin e Malkut salgono come Man a Binah, e Avi, il padre e madre, con le loro stesse asserzioni, quali forze sono in lei, i loro migliori diplomi, con il quale lei potrebbe poi qualificarsi per portare il mondo alla perfezione tramite lei. Perché solo allora il mondo può essere creato da te. Cosa significa creare il mondo? Quando la Torah inizia con la lettera Bet, cosa significa? La Torah è Kelim. Kelim in ogni tipo di relazione, in ogni tipo di forme. Torah è Kelim e chi inizia da Kelim, quella è la lettera con cui è creato il mondo. Nella Torah l'intero universo è descritto in termini di forze. Allora perché pensava di essere la migliore di tutte le lettere, che da lei il mondo sarebbe stato creato? Questo perché lei ha il potere, forza, Haemet, la verità. È l'ultima lettera, impronta, stampa della parola Emet. Ci ha detto un po' l'ultima volta. Anche il re ha un anello. In passato il re aveva un anello con il quale premeva un timbro. Ed era così. Questa è la verità. Un documento che aveva timbrato era visto come la verità. Sul suo anello c'era un sigillo e lo premeva su un pezzo di carta o simili. La caratteristica del re è il suo sigillo di verità. Connetti passo dopo passo. Perciò anche la Tav pensò, perché è l'ultima lettera della verità, che sarebbe stata idonea a creare il mondo da lei. Il mondo doveva essere creato da qualcosa che era perfetto. Di quale tempo parli? Dal momento prima della creazione del mondo. Prima che il mondo fosse creato, tutte quelle lettere venivano per Avi, perché dovevano creare Zerampin e Malkut. Zerampin e Malkut sono le forze del seme del mondo, come l'universo è. Il creatore ha creato solo i punti in cima e dopo quello ogni cosa è entrato in funzione. Potenziale? Sì, potenziale. Il potere in potenza di Azilut. E poi è stato tutto rilasciato come effetto boomerang. Supponiamo che tu voglia costruire una casa. Stai andando da un architetto che vedrà quali risorse, eccetera. Elaborerà un piano e un disegno. La casa è già pronta per l'architetto. Il resto è l'effetto di questo. Poi ci sono appaltatori e materiali, ma la casa è già pronta anche per l'acquirente, che deve solo aspettare 6 mesi o 3/4 circa. Questo qui è anche la causa. Non parliamo quando è fatto, ma prima nel potenziale e irruvidimento delle luci. La lettera Tav mirava al fatto che lei era il sigillo della parola Emet verità, che Malkut è il sigillo dell'anello del re. Questo è aramaico, Kutma, sigillo, De Gush Panka, anello, De Malka, del re. Quindi quella era la sua risorsa, argomento. Ce lo spiegherà meravigliosamente. L'intera intenzione è: il mondo è stato creato in modo tale che entrambi i sistemi sono nel modo in cui la santità vince sulle forze impure. Questo è il significato. Dall'interno dobbiamo sempre avere il generale, il suo scopo. Dopo ci sono molti altri effetti. L'importante è il compito che il mondo sia costruito in modo che l'uomo, l'inferiore, abbia il potere per superare. È chiaro che i poteri del dare, i poteri della vita, le forze sante superano le forze impure. Lasciar vincere il santo dall'impuro, quello era lo scopo. Pertanto tutte le lettere vennero una ad una per lui. Lui doveva guardare quale lettera era appropriata. Proprio qui come nel nostro mondo, ovviamente, è diverso nel nostro mondo con quei presidenti. È esattamente l'opposto. Ma deve essere precisamente così in Israele. Era così che i re e i principi, c'era un ordine della Torah che si doveva cercare l'uomo più santo dal popolo che doveva essere in cima. Poi è stato applicato alle Nazioni Unite. Doveva essere quello che era il più vicino al Creatore. Era idoneo a governare sul popolo di Israele. Tutto in accordo con le proprietà. Ora guarda cosa ci dice. Ed è noto che Sa, l'altro lato, potere impuro, esiste solo per grazia di ciò che la santità splende su di lei con un po' di luce. Ciò che la santità dà a lei. Un'altra volta, principio. Ci sono alcuni principi che superiamo. Proviamo ad ascoltare, a sentire. Ci sono poteri puri e impuri. Il Creatore ha fatto poteri impuri in modo che essi esistano solo in grazia di ciò che il lato santo dà loro un po', dà un po' per mantenerli in piedi. Abbiamo parlato del tavolo reale e sotto il tavolo c'è un cane. Uno lancia un osso sotto il tavolo e il cane mangia quel cibo e non abbaia. Lo stesso principio è mantenuto a Yom Kippur. Due capre sono portate a Yom Kippur. Una capra è per il Creatore e una capra è per il potere impuro. La capra per il potere impuro è stata portata in un deserto da qualche parte. Sapevano dove e cosa era necessario. L'intenzione era la seguente. La gente, un essere umano, parliamo sempre di un essere umano, Yom Kippur resterà per il Creatore. Naturalmente tutti i poteri vengono per il Creatore. Non solo i buoni poteri, i poteri sacri, ma anche i poteri impuri, anche il cattivo principio in noi, e sente ogni cosa che dico. Quando dico ho peccato, l'ho fatto, e l'ho fatto anche un po' di quel potere impuro. Qual è il trucco? Per portare anche un sacrificio a lui. Due sacrifici, una capra per il creatore e una capra per l'altro. Perché? Dai anche qualcosa a lui, perché, come abbiamo imparato, l'impuro deve anche avere qualcosa per tenersi in vita. Perché dovremmo tenerlo in vita? Perché ci sono ancora scintille in lui. Rompendo i chelim, il peccato di Adamo, ogni cosa è mescolata. E devi alimentare lui un po', perché ci sono ancora scintille di cui abbiamo bisogno per la nostra salvezza. Più tardi, chiaro? Quando viene il Mashiach, grado dopo grado, le forze saranno prese da lui. Lavoriamo su noi stessi per estrarre il più possibile da lui il potere impuro per purificarci. Ma non abbiamo il potere di far uscire tutto fino all'ultima scintilla. Non abbiamo potere. C'è sempre qualcosa in lui che è come un sedimento, ma più tardi, quando verrà il Mashiach, lui lo gestirà bene, per cui rinuncerà a tutto. Fino alla venuta del Messia ogni cosa rimane. Non dovresti pensare che sarai salvato in quel modo. Lui vive sempre, ma hai bisogno di sapere come gestirlo. Capisci? Ogni anno dovevano dare una capra per quel potere impuro. E poi, proprio come nel caso con il tavolo reale, che dai un osso al cane che abbaia e si calma, è impegnato con l'osso. Così Israele, in ogni uomo, a Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, deve dare come se fosse una capra al potere impuro, che questo potere impuro non lo accuserà in quel giorno di Yom Kippur. Gli ha dato qualcosa e lui è occupato e soddisfatto con quello. Lo distrai, è soddisfatto, è applicabile anche nel nostro mondo, proprio come fece Yaakov. Yaakov ha incontrato Esav, ti ricordi ancora? Prova a leggere un po' di quella storia della Torah. Yaakov ha dovuto incontrare Esav dopo il suo ritorno. Yaakov era fuori dal paese e doveva ritornare con tutti quei bambini. Aveva ovviamente paura di Esav. Perché aveva paura? Lo impareremo più tardi. Il Creatore gli ha promesso il futuro. Perché doveva aver paura? Lo Zohar ce lo dirà. È molto elevato, per cui è così. Ha diviso la sua proprietà in due campi e ha inviato regali a suo fratello Esav, che è un rappresentante, vive della grazia dei poteri impuri. Aderendo ai poteri impuri, quello è il potere di Esav. Lui fece così, gli inviò come se fossero due campi per renderlo felice. E quando Yaakov venne, lui era già amichevole. Nemmeno quello impareremo cosa significa. Potere impuro e potere puro. È chiaro? Devi farlo anche tu. E non come qualcuno qui ci ha detto nella sua dedizione che odia il proprio cattivo principio. Ha chiesto se dovessi maledire il tuo cattivo principio. Me lo chiese, gli ho detto che se lo maledici non viene mai alla vita. Tutto il trucco è ovviamente quello di dare una piccola quantità al tuo potere impuro. Come lo fai quello nella pratica? lo impareremo più tardi, esattamente più tardi. Ritarda, sì, sono andato a prendere una chiave oggi. Passo davanti a Aienius, negozio di sigari ad Amsterdam, ed ero un amante dei sigari. Allora volevo proprio entrare. No, ne ho abbastanza. Senti, probabilmente ho lavorato su me stesso nella misura in cui non è più necessario. Ma il sapore è ancora lì. Quello che voglio dire è che ho bisogno di dargli qualcosa. Per esempio, vado in quel negozio, guardo dall'esterno alla finestra del negozio, ottengo una piccola spinta, ma non ho intenzione di fumare. Non ti tenti, per cui lo rendi solo più difficile. Hai bisogno di sapere quale tentazione fare solo un po', e non completamente, solo cose che puoi gestire.